Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Siamo in tanti noi emigranti a Londra, ciascuno a fare i conti con la propria condizione di esule, volontario o forzato. Per alcuni di noi questa città è un luogo migliore di quello che abbiamo lasciato, mentre per altri la nostalgia è il filo conduttore della quotidiana esperienza all'estero. Sono Giulia, vivo a Marostica, ho 31 anni e sono una giornalista freelance. C'è nell'immaginario soprattutto di una generazione, che è un po' quella a cui appartengo, una città più di altre città che forse per altre hanno rappresentato qualcosa, dall'Oriente, dalle città dell'India diversi anni fa, agli Stati Uniti, a quelle orientali invece oggi, no? Shanghai, Pechino. Londra è stata, ed è tuttora, però in particolar modo per le persone che hanno tra i 30 e i 40 anni, il luogo ideale dove a un certo punto andare a vivere. Se ci siete passati da quella città, se avete vissuto, se ci vivete ancora adesso e magari vi state ascoltando in streaming questa trasmissione, 349-238-6666, altrimenti se siete davanti a un computer c'è Facebook e Twitter, voi siete qui Radio 24, oppure il mio personale Twitter che è Matteo Caccia. La vostra Londra, che cosa vi è rimasto di quella città, che cosa vi rimane se ci siete, che cosa vi ricordate? 349-238-6666. La storia di Giulia parla di un pezzo di Italia trapiantato là, parla di lei che è lì, che conosce gli italiani che ci arrivano e che ci arrivano per i motivi ovviamente più svariati. Ci sono dei messaggi, è strana questa cosa, quando si parla di italiani che se ne vanno all'estero, non so perché, ma è come se le persone che ne parlano si dividessero sempre in tre tipologie. La prima è quella che ci è passata in vacanza, non gli ha fatto né caldo né freddo, qualunque sia il luogo. La seconda è quella che invece ammira quelli che se ne vanno e dicono: ah, beato te, lo farai anch'io, vorrei farlo anch'io, ma non ho il coraggio, forse domani lo farò. E gli altri invece sono quelli che quasi li criminalizzano. Bravi, andatevene. Ci sono appunto diversi messaggi. Giacomo che scrive: io ho vissuto 2 anni a Londra, ora sono tornato in Italia nella speranza di trovare qualcosa, data l'esperienza acquisita in campo lavorativo. È un mese che sono senza lavoro, a gennaio torno là. Lucia dice: ho fatto un lavoretto come receptionist in un takeaway di quart'ordine, non riuscivo mai a capire gli indirizzi corretti dove far recapitare le pizze, infatti andavano altrove. Il proprietario arabo mi perdonava, ma alla fine le pizze le pagavo io. 349-238-6666. Paolo, ecco, Paolo è quello che stigmatizza maggiormente, come il cammino di Santiago per i pellegrini, come l'autoscatto per gli adolescenti, come il reflex per chi non sa nulla di fotografia, come il non votare per gli ignoranti. Londra per i giovani italiani frustrati del vorrei guadagnare tanti soldi e sentirmi realizzato, per me è solo una moda. Mazza, Paolo, quanto livore, ma che c'è? Ma che t'ha fatto questa città e quelli che ci vanno? Ci sono persone che ci vanno perché hanno bisogno di soldi, non devono guadagnare, perché ci devono campare. E Paolo, però ti capisco, c'è qualcosa di personale chiaramente con Londra, o ti ha portato via qualcuno o qualcuna, ma ce l'hai chiaramente con lei. 349-238-6666, alzate un po' il volume della radio, questa storia è la storia di Giulia. In tempi di crisi Londra appare sempre più simile a un porto di mare, una grigia isola florida che assiste giornalmente ad arrivi e partenze, dispensa benvenuti e arrivederci, accoglie senza grandi promesse e saluta senza troppa affezione. La signora Anna, 59 anni, ha una passione per il cibo assaporito e l'abbigliamento un po' pacchiano. Napoletana verace, moglie devota e madre di 3 figli, orgoglio di mamma, dice. Vive a Londra da quasi un anno. Ci siamo conosciute mentre lei, in lacrime, cercava di comunicare con una mia collega in inglese e la collega gridava aiuto con lo sguardo nel tentativo di ottenere una qualche forma di supporto, soprattutto linguistico. Tremava e balbettava la povera Anna. Il mascara le colava sulle guance e le mani si aggrovigliavano in un gesticolio senza sosta. Ci siamo intese subito. Mi ha raccontato di lei e della sua famiglia, del difficilissimo abbandono di Napoli e del trasferimento nella capitale britannica, perché mi dice le strade di Napoli non guardano in faccia nessuno e non concedono possibilità. Ieri per caso ci siamo incontrate di nuovo, ci siamo guardate, lei mi ha chiesto timida se poteva parlarmi in italiano e io le ho detto: ma noi ci siamo già conosciute. Nel volto della signora Anna allora è apparso un sorriso liberatorio. Prima di salutarci mi confida che con il marito e con i figli hanno in cantiere un progetto importante: aprire un piccolo ristorante italiano a Londra che garantisca alla città di sua maestà l'ineguagliabile cucina del bel paese. quanto siamo bonariamente banali, noi emigranti, tutti a rievocare i sapori e le prelibatezze della bella e dannata Italia. Ho vissuto a Londra per quasi 3 anni e ho scelto di abbandonare un lavoro in Italia ottimo, ma un po' troppo composto, sobrio, e quindi con un inglese zoppicante ho deciso di trasferirmi. Jesús ha 26 anni, spagnolo di Ávila, un amore sfrenato per il calcio, per il Barcellona e uno sguardo sincero e pulito. Ci siamo conosciuti poco dopo il suo arrivo a Londra, un trasferimento che quasi coincideva con il mio e un'amicizia nata all'interno di un magazzino del West End. 4 ore di lavoro quotidiane per condividere timori, obiettivi, speranze e difficoltà in un inglese zoppicante. Oltre 2 anni nella capitale britannica per migliorare l'inglese, sperimentare la più completa autonomia e raggiungere un ruolo di supervisore in una nota catena di abbigliamento internazionale. Ora però, mi dice, è giunto il tempo di tornare a casa. Jesús rientrerà fra poche settimane nella Spagna in crisi. Dalle difficoltà nascono le idee e nel momento in cui tutti sembrano lasciare, mi dice, mi sembrano lasciare a pieno diritto un paese che pare senza futuro, io provo a ripartire da là. Non esistono certezze, ma se non ho la possibilità di scegliere il lavoro per il quale ho studiato, voglio almeno decidere dove e con chi vivere la mia vita. A Londra lui lascia il sogno di una carriera radiofonica e pochi rammarichi. In Spagna invece ad aspettarlo ci saranno famiglia e fidanzata. L'esame per accedere all'Accademia di Polizia è una valigia accanto al letto che per ora sarà a letto singolo nella casa dei genitori, pronta in caso di necessità. Siamo in tanti, noi emigranti a Londra. Ciascuno a fare i conti con la propria condizione di esule, volontario o forzato. Per alcuni di noi questa città è un luogo migliore di quello che abbiamo lasciato, mentre per altri la nostalgia è il filo conduttore della quotidiana esperienza all'estero. Ho lasciato l'Italia abbandonando un lavoro certo. A Londra sapevo che avrei trovato una sorella. Sono partita lasciando a casa in Italia il fidanzato, che poi mi ha raggiunto l'anno successivo diventando marito anche nel frattempo. Tante insicurezze in Italia lasciavo, ma la sicurezza di voler continuare a sperare in un lavoro che mi appassionasse, in una vita più serena, tranquilla, meno legata ad un ufficio. Abbiamo lasciato il paese d'origine senza troppo protestare. Qualcuno lo ha fatto anni fa, dimostrando lungimiranza. In molti lo stanno facendo ora, un po' per necessità e un po' perché lo fanno tutti. Per chi resta e per chi va, la speranza è quella di essere padroni delle proprie scelte ed eventualmente anche dei propri errori. La preghiera è quella di non dover diventare parte di luoghi comuni e statistiche che raccontano la crisi. Il lusso è, se non di poter scegliere cosa ottenere, almeno di decidere ciò a cui non si è disposti a rinunciare. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines start running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out. Lo dicevo prima, ogni generazione ha i suoi luoghi di riferimento. A inizio del Novecento la destinazione era Parigi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo scoperto l'America. Negli anni 60, 70, il Perù, l'India, la California, l'Australia e i chakra della terra diventano mete di pellegrinaggio per la cultura hippie. Negli anni 80 la Grande Mela, New York. Per quelli di poco più giovani di me è Berlino la città di riferimento. Ma per quelli della mia età c'è stato un momento, di solito appena finiti gli studi, in cui si è detto, o almeno si è pensato, io me ne vado a Londra. Per noi Londra era la destinazione. A Londra trovi un lavoretto in una settimana e riesci a mantenerti da subito. Ci stai almeno 6 mesi, impari l'inglese e poi te ne torni. Questo era il leitmotiv che ci ripetevamo ogni tanto. Alla fine degli anni 90 io vivevo con Mauro e Federico e sullo stesso pianerottolo, in questa casa qui a Milano, proprio di fronte alla nostra porta, c'erano Eva, che era una studentessa della Bocconi, e Valeria, scienze della comunicazione. Insieme a loro abitava anche Lulu. Lulu era un pastore marommano che Valeria si era trovata in eredità da una signora milanese per cui faceva la dog sitter. 3 ragazzi che vivono di fronte a 2 ragazze e una cagnolona non possono non diventare amici, e così è stato. Noi avevamo le loro chiavi di casa e loro le nostre. Noi facevamo la spesa e loro cucinavano. Si pranzava da noi e si beveva il caffè da loro. Dopo il caffè, Eva decretava la cosiddetta rabonza. La condizione essenziale della rabonza era di fare qualsiasi cosa volessimo, a patto che fosse una perdita di tempo. In un pomeriggio esemplare di rabonza, Mauro smontava mobili senza poi saperli rimontare, Valeria mi tagliava i capelli con le forbici da sarta, Eva si tingeva i capelli con dei colori punk e il Fede con la stessa tinta colorava invece qualche ciuffo di Lulu. Valeria ci prestava la macchina tutte le volte che ci serviva e noi l'abbiamo aiutata a imbiancare casa. Il primo indirizzo di posta elettronica me l'ha aperto Valeria. Avevamo un computer in comune a casa loro. Il nostro idillio però si è spezzato un giorno perché Eva, dopo la laurea è un amore, è andato in pezzi, in un pomeriggio di rabonza ovviamente ce l'ha detto: ragazzi, io me ne vado a Londra. Dopo qualche mese Valeria ha sfruttato una borsa di studio di una casa di produzione cinematografica per dirci anche lei: io me ne vado a Londra. E il Fede, più per caso che per scelta, ha inseguito un amore ed è finito a Londra. Eva e Valeria, secondo copione, hanno trovato un lavoro, una casa e una città nuova. Il Fede invece, finito l'amore, ha vissuto per un anno insieme a Ian, che per lui era diventato Iano Barambano. Ha imparato bene la lingua e poi è tornato. E Valeria invece no, loro sono rimaste. Sono state risucchiate da quella città. Sono andato a trovarle qualche anno fa, vivevano vicine in un quartiere nell'East End, un quartiere pieno di cose da fare. Vivevano tutte e due in case grandi, con la scala appena entri, la moquette per terra e le scarpe distribuite sui gradini, una cucina spaziosa e tante finestre. Di giorno loro lavoravano, io giravo Londra da solo, la sera le raggiungevo e stavamo insieme. Valeria mi ha presentato il suo fidanzato, che non mi stava particolarmente simpatico. Poi, il giorno dopo, io e lui, da soli, siamo andati in un locale turco a sentire tre australiani di 20 anni che suonavano free jazz e siamo diventati amici. Dopo 4 giorni dovevo tornare a Milano, avevo un aereo prestissimo, così sono uscito di casa prima dell'alba. Era buio, faceva freddo. La città che mi scorreva dal finestrino dell'autobus si rianimava lentamente intorno a me. E stava succedendo anche a me, che non mi andava più di ripartire. Arrivato all'aeroporto ho fatto il check-in in fretta e sono salito in aereo. Ho cercato di addormentarmi, ma quella frase mi suonava in testa. Quella frase che avevo sentito tante volte, ma che, al tempo giusto, io non ho mai pronunciato. Ragazzi, io me ne vado a Londra. Becoming light as feathers. Becoming light as feathers. Becoming light as feathers. Becoming light as feathers. Becoming light. Becoming light. Through the English weather. Over gorse and heather. Becoming light as feathers. Ormai vanno di modissima le foto non singole, come ieri, anche oggi arriva una foto che ieri era tripla, adesso è doppia. Giulia è con il suo fidanzato in queste due foto, che ovviamente trovate sul nostro sito, alla nostra pagina Voi Siete Qui. Sono in posa davanti all'obiettivo e fanno le facce che fanno gli innamorati quando sono insieme davanti a un obiettivo, insomma, stanno giocando, fanno la faccia un po' seria e un po' stupida, anche se non capisco dove sono, se sono a Londra o se sono in Italia. Pronto Giulia? Pronto, ciao. Con tutto il rispetto, ovviamente, fanno le facce da stupidi, nel senso che... No, mi sa che sarà felicissimo mio marito di ascoltarti e sapere che l'hai confuso per Jesus, perché nella foto sono con Jesus, il ragazzo. Ah, benissimo, è la prima gaffe, ricominciamo da capo. Pronto Giulia, come stai? Bene, grazie, tu? Io, no, perché ho immaginato, ci arriva una foto di una ragazza e un ragazzo, lei è sposato, io nella mia scarsa fantasia di romentinese, cioè no, non che romentinese, la mia scarsa fantasia, ma di ragazzo della provincia, dico sarà suo marito, e invece no. No, hai ragione. È Jesus, è il ragazzo di cui ci parli, che è tornato in Spagna. Sì, era il suo ultimo giorno di lavoro. Effettivamente assomiglia un po' a Pep Guardiola, quindi qualcosa di spagnolo ce l'ha. Identico, sì, lo sappiamo. È a cavallo tra Pep Guardiola e Checco Zalone, non so se sarà contento, ma... o Zalone o anche Guardiola. Dove siete in questa foto? A Londra, quindi, immagino. A Londra, era il suo ultimo giorno di lavoro durante la mia pausa pranzo. Ma tuo marito è italiano? Sì. Ah, vi siete conosciuti là, ma con nazionali? No, noi eravamo insieme da diversi anni, quando io sono partita, da 9. E poi ho fatto un anno da sola lì, da sola con mia sorella, mm-hmm. e lui mi ha raggiunto e poi ci siamo sposati qualche mese fa. Beh, quindi ipertestata questa relazione, insomma, insieme da tanto tempo, tu te ne vai, lui ti raggiunge e adesso però siete tornati a vivere in Italia. Sì, per un po', almeno temporaneamente stiamo provando, solo sì. L'ultimo tentativo con l'Italia. Nel senso che ci avete già provato e poi siete ripartiti? Beh sì, sono tanti anni, sai che provi. Io poi come freelance la ricerca è costante e fortunatamente posso scrivere un po' dovunque. Londra da questo punto di vista era un ottimo contesto. Perché tu sei giornalista, giusto Giulia? Sì, io scrivo, sono giornalista e insomma scrivi quello che serve. Scrivo storie. Brava, mi fai una differenza proprio di prezzo tra quanto ti pagano una storia, un giorno un articolo in Italia, quanto te la pagano a Londra? Ma sai, io ho scritto da Londra per una rivista italiana. Ah, ok, quindi il nome mi pagavano molto bene. A Londra non ho mai scritto in inglese in realtà, non lo so, il mio inglese è buono, ma non migliorato, ma non buonissimo. Quando dici che hai lasciato un lavoro in Italia, un lavoro troppo comodo, che lavoro era? Impiegata in un ufficio marketing e comunicazione, era uno splendido lavoro, però in Italia tu sei il lavoro che fai, e per me era una sorta di schiavitù a quel lavoro, a quella scrivania, quindi... Tra l'altro ci arriva un messaggio che dice: da 10 anni a Londra, ho 40 anni, sono il deputato degli italiani all'estero, si firma Guglielmo Picchi, abbiamo già fatto una ricerca ed è vero, è un deputato del PDL che è stato eletto per la circoscrizione estero nel 2013 e dice: gli italiani a Londra oggi sono 217.000. Ma c'è sempre lavoro e equivale il merito, Guglielmo Picchi, e lo ringraziamo. Questa cosa è ancora vera? Cioè è vero che tu sai fare una cosa, Giulia, arrivi lì e più o meno riesci a farla? No, mi dispiace, è un pregiudizio, okay. Non so se tipicamente italiano o un luogo comune di quelli che ci piace ascoltare e ripetere, ma assolutamente no. A Londra puoi fare tutto, oggi sei una cosa e domani sei un'altra, però a livello di meritocrazia... C'è una bella differenza tra l'essere inglese ed essere straniero, almeno l'esperienza che ho avuto io in un negozio, in una catena svedese d'abbigliamento. Che conosceremo, immagino, che inizia con una H e finisce con una M, probabilmente. Sì, breve, diciamo. Sì. Giulia, senti, poi ti devo salutare. Nel futuro, quindi, il tuo futuro quanto è lungo? Cioè, quanto lo misuri? Di 6 mesi, un anno? Che tempi vi date tu e tuo marito? 6 mesi adesso. 6 mesi, ok. I 6 sono andati. Quindi ci sentiamo verso la primavera per capire cosa fate. Sì, va bene. Giulia, ti ringrazio per la storia, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, grazie. Presto. Ciao, grazie. Ciao. Ci ho vissuto 6 mesi dopo il liceo, nel 1986 ci ho conosciuto una splendida ragazza che tuttora è mia moglie, Giuseppe, è sempre così. Uno va là, o trova lavoro, o trova la moglie, poi ci torna. 6 anni a Londra, Marco dice, è nata mia figlia, ho preso lei e sua madre e sono tornato in Italia. Guadagno la metà. Ma ne sono felice. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile il programma, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni e Mauro Pescio. Raccontate storie, scaricate il podcast dal sito di Radio 24 e da iTunes se volete gratuitamente o da tutte le app meravigliose che ci sono della radio e anche no. Io sono qui domani come al solito, ringrazio tutti, ma ringrazio soprattutto Giulia, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Alessandro, abito a Nova Milanese, la storia di domani è la mia, parla di 5 ragazzi, 5 amici che si erano inventati un progetto che avrebbe potuto cambiare la loro vita. Questa è la mia storia e io sono qui.